musica. Vai con Marilyn Manson, che c'ha un'immagine a metà fra l'assassino e l'alieno, vero? Di serial killer all'alieno. Studiatissima. Questo è Rock is Dead, Marilyn Manson. Mixo.